Ora è 22 e 12 minuti di lunedì 6 gennaio 2025. Sto leggendo in questi giorni l'ultimo voluminoso saggio di Enrico De Aglio, dedicato agli anni 70, uscito da poco in libreria, opera monumentale, forse scritta anche in modo un po' frettoloso, non è proprio un capolavoro di editing, però offre spunti interessanti, soprattutto nelle varie cronologie molto approfondite di quegli anni. A ogni pagina davvero ti rendi conto di essere rimasto tu, forse, un attrezzo del Novecento. Mi ha colpito molto, per esempio, riscoprire che esattamente 50 anni fa, nel 75 appunto, in Italia si realizzava forse la misura più egualitaria di tutto il mondo occidentale, no? Con l'adeguamento dei salari, di tutti i salari, ai punti di inflazione. La scala mobile più precisa rispetto anche a tutti gli altri paesi europei che ne stavano ragionando o la stavano implementando, chi più chi meno. Io non so quanto tutto questo sia, perché da noi effettivamente c'era, soprattutto in quell'anno, in quegli anni, il partito comunista più forte d'Occidente, però di sicuro possiamo definire questo tipo di misura diametralmente opposta a tutto quello che vediamo oggi. Adesso, senza scomodare Jeff Jarvis quando parla di enshittification, no? di tutto quello che vediamo minuto per minuto, no? In Austria si torna a eleggere, a nominare primo ministro di fatto un neonazista. Quando succedeva questo con Haider qualche decennio fa, ci mise davvero poco l'Unione Europea a obbligare gli austriaci a fare marcia indietro, ve lo ricordate? Minacciando appunto la procedura di espulsione. E oggi invece è tutto normale, perché nel frattempo abbiamo avuto Orbán, abbiamo avuto varie prove tecniche di democrature in paesi che ci siamo voluti imbarcare all'interno della costruzione del pensiero di Schumann. E quindi oggi ci ritroviamo davvero con tutta una serie di segnali, grandi e piccoli, che vanno tutti nella stessa direzione. E qual è questa direzione? Che gli innovatori sono i più pericolosi. Il più grande innovatore, Elon Musk, è il più pericoloso, mi verrebbe da dire. E questo ci porta indietro non agli anni 70, ma agli anni 30. Negli anni 30 gli innovatori erano i più pericolosi, forse anche negli anni 20. E a questo proposito mi verrebbe da fare anche una piccola recensione della mostra del futurismo. Sì, mi sono anch'io intrufolato alla Galleria Nazionale per cercare di capire soprattutto quale fosse l'operazione politica dietro questa importante, sicuramente, esposizione, molto completa, è stata giudicata così più o meno da tutti, soprattutto la mia madre, che è una vera artista, quindi sa anche dire se le opere erano opere di valore. Sì, c'erano molte opere di valore, ma qui non è in discussione la bravura di maestri come Balla, come Boccioni, come Severini, o come De Pero. Non è nessuno dice che i futuristi non fossero grandi artisti. Il vero problema è perché deve tornare all'attualità il loro pensiero, il loro messaggio, e che è un messaggio, dal mio punto di vista, io devo dire, ho studiato storia contemporanea in modo abbastanza approfondito, ho completato gli studi di politica internazionale a scienze politiche, e poi insomma per anni ho continuato anche a frequentare, che so, la SIOI, no? Questi posti dove si torna su quegli anni. E devo dire, confrontando per esempio il pensiero dei futuristi con la dottrina fascista, ammesso che si tratti di pensiero nel primo caso e di dottrina nel secondo, beh, sicuramente è molto più pericoloso il futurismo del fascismo. Il fascismo, vedete, alla fine è un fenomeno storico guidato da un grande opportunista, che, come racconterà molto bene la serie che sta per uscire su Sky, se non sbaglio, tratta dal libro di Scurati, beh, sicuramente era una persona che sapeva fiutare in che direzione stava tirando il vento. E invece il problema dei futuristi è che erano degli idealisti, erano degli intellettuali, e l'intellettuale per definizione è qualcuno che si assume la responsabilità di ciò che trasmette alla società, e i futuristi volevano trasmettere alla società che la guerra, per esempio, era l'unica igiene del mondo. Ecco, oggi loro sarebbero dei grandi innovatori, perché tutto va nella direzione della guerra, e davvero mai come in questi giorni mi sento un vecchio attrezzo del Novecento.